si mettono d'accordo che per sapere come cazzo dobbiamo farlo, perché una volta è fallo, una volta non è fallo, una volta interviene VAR, una volta non interviene VAR. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Ancora una possibilità per il Milan, la giocata dietro a cercare Ibra, anticipato Ibra, ancora, prova, Ibra, trasforma in oro qualsiasi cosa Zlatan Ibrahimovic. Morata invece serve dentro Ronaldo, area di rigore, posizione regolare, appena entrato Ronaldo, fino in fondo, torna e fa subito gol al 59esimo, l'assist di Morata, il gol, tanto per cambiare, è di Cristiano Ronaldo. Eh sì, perché ci ha messo meno di 3 minuti Cristiano Ronaldo per alzarsi dal lettino e alzarsi dalla panchina e trovare il gol che ha spianato la strada alla Juventus, non brillante nel primo tempo a Cesena contro lo Spezia, Juventus che vince il Milan ed è in mini fuga in testa alla classifica, vince anche la Lazio. Ci sarà molto da parlare della questione arbitrale, che è uno dei grandi temi di questo weekend e non solo, è successo di tutto anche oggi dopo quello che abbiamo visto ieri a San Siro, ma ne parliamo alle 18.05 con una edizione straordinaria di VAR Anatomy, più lunga e più articolata. 800 24 00 24 per chiamare, intervenire in diretta fino alle 19, 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp anche vocali. Carlo Genta, ciao. Ciao Giovanni, ciao a tutti. Allora, sta già parlando Andrea Pirlo e se sei d'accordo andiamo a sentirlo. Eh sì, sarebbe il caso. Anche lui, gli manca ancora un po' la condizione, ancora la gamba giusta, però sta crescendo e lo aspettiamo. Già dalla prossima partita in Champions League vedremo qualcosa di diverso ancora? Non so, tutte e tre insieme o è ancora presto vista la condizione fisica? No, è ancora presto, perché Cristiano viene da 20 giorni di inattività, anche Dybala sta crescendo durante le partite, però adesso vedremo come staremo nei prossimi giorni, poi decideremo. Ale. Allora, gira tutto intorno a loro, a Cristiano Ronaldo e a Zlatan Ibrahimovic. Sai che cosa ho pensato questo pomeriggio, Carlo? Che il talento non ha età, insieme fanno quasi 75 anni, poi arriva il momento della verità e sulle spalle Juventus e Milan se le caricano loro. Io ho pensato a Messie della Palissa, cioè entra Ronaldo e cambia la Juventus in 3 minuti, una Juventus che faceva fatica fino a lì, e poi guarda che strano, entra più forte giocatore del mondo, o uno dei 2 o 3 più forti, fate voi, insomma, mettetelo dove volete, e cambia la Juventus, ma cambia proprio faccia, proprio e anche emotivamente. Quindi abbiamo fatto questa scoperta straordinaria, Giovanni. Sì, che è forte. Non so se sia mancato tanto contro il Barcellona, perché lì la Juventus ha giocato una partita deludente a prescindere. Saluto Michelangelo Rampulla, ciao Michelangelo. Ciao. Ciao, ciao, buon pomeriggio. Ti è piaciuta la Juve oggi? Nel senso che ha fatto rispetto al secondo tempo, un primo tempo un pochettino forse un po' in ombra, però insomma, tutto sommato alla fine era importante il risultato, credo, e quindi va bene così, anche se non mi è sembrata la solita Juve. Sì, anche Michelangelo, gli anni passati, non dell'ultimo periodo. No, ma certamente, poi abbiamo scoperto appunto che si alza Cristiano Ronaldo sull'1-1, entra in campo con una Juventus che stava facendo fatica e finisce grosso modo in goleada. Un altro dei sorvegliati speciali era il numero 10, cioè Dybala, che anche oggi molto molto in ombra. Sì, non lo so, sembra un po' di tanto diverso rispetto all'anno scorso, sembra, non lo so, senza non dico senza voglia, però forse non è ancora in sembra un po' condizione. Sfiduciato. Bravo, sì, sembra questa, quell'impressione che dà è questa in queste ultime partite che ha giocato. Non so se queste voci, rinnovi lo possono condizionare, però sembra così, o perché non mi sembra che sia al top della condizione, questo si è visto, però anche a livello mentale mi sembra lontano da Dybala quello vero. Sì, sì. O forse per primo è lui a credere poco all'idea che si possa fare una Juventus con Ronaldo, Dybala e Morata insieme, e teme, credo, ha la percezione di poter essere il sacrificato. Sì, avendo acquistato anche Chiesa, i posti poi si riducono, no? Però io sono sempre stato dell'idea che i grandi campioni possono giocare insieme, e credo che insomma, un tridente con Dybala, Ronaldo e Morata sia di tutto rispetto, per cui è lui che è il primo a crederci, è chi ci deve credere. Curioso notare, Giovanni, come sia un po' un destino comune di questi primi mesi autunnali, quello di Dybala e quello di Lautaro, di cui parleremo dopo. Due argentini, due grandi talenti, due numeri 10, due giocatori molto appannati. Che stanno facendo fatica. Sì. Sì, sì, questa è la mia sensazione. Sì, stanno facendo fatica tanto. Io credo che siano due storie diverse, anche se ieri chiaramente Lautaro Martinez ha mancato clamorosamente l'occasione in cui serviva di più all'Inter, perché non c'era Lukaku, e questo è un problema per Conte, e Conte ha tanti altri problemi, al netto della questione arbitrale di cui, ripeto, torneremo a parlare, perché tra ieri e oggi si è visto di tutto e qualche avvisaglia c'era già stata e ne avevamo parlato settimana scorsa. Uh-huh. E nelle settimane precedenti. No, io volevo chiedere invece a Michelangelo, che conosce il calcio da dentro, che faccia è quella di un giocatore, ed è quella di Dybala, che viene sostituito dopo 55 minuti, se ne va a testa bassa e poi vede chi è subentrato decidere la partita, cosa che a lui non è riuscito a fare. Io intendevo anche questo, cioè mi riferivo proprio a questo, al discorso di Dybala, che ha fatto proprio quella faccia lì, nel senso che esce dal campo, è una squadra sull'1-1 che deve vincere e vuole vincere, il giocatore che esce deve uscire con non lo so come dire, con non dico di convoglio di uscire, ma insomma fare in fretta per far entrare il compagno, perché entra una forza nuova, poi non è che entra è l'ultimo arrivato, entrava Ronaldo, per cui, però in questo caso io proprio dicevo che era, lo vedo proprio sfiduciato mentalmente a terra, e poi certamente vedere il giocatore che ti ha sostituito dopo 2 minuti si trova solo davanti al portiere e fa gol. Ma come si riaccende la spina a un giocatore? Cioè, cosa deve fare Pirlo? Che corde deve toccare? Diventa difficile, però deve farlo giocare. Poi sai, poi questi sono calciatori fuori classe che basta poco, no? Basta poco. Però sembra troppo, come posso dire, puerile il discorso del contratto, che non rinnova il contratto, che vuole tutti quei soldi. La Juve magari ne vuol dare meno, tra virgolette, perché dopo sono sempre tanti soldi. Cioè, mi sembra che sia troppo puerile il fatto che lui si comporti così perché non si rinnova il contratto, come dice lui. Cioè, sembra strano, però è a mettere sul piatto la bilancia anche questo, no? Quindi non lo so, vabbè, poi ci sono tante cose, giocare senza pubblico e tutto, magari uno la prende in un modo, poi ci sono ragazzi che la prendono in un altro modo. Senti, è tutto il contesto, la situazione del Covid, è tutto il contesto, e credo che questo un contesto in cui si continua a segnare, eh? Siamo a 27 gol in questa giornata e mancano ancora 4 partite. Senti, Michelangelo, non ricordo esattamente la tua carriera, ma ti è mai capitato di essere allenato da un tuo ex compagno di squadra? No, io ho avuto la fortuna di aver avuto dei grandi allenatori, ma non dei miei compagni. Io sono stato con lo staff di Ciro Ferrara quando nel 2009-2010 abbiamo allenato la Juventus. E come ti sei trovato? Quali difficoltà hai incontrato? Lì sono io che ho allenato Buffone, che era il mio compagno di camera. Sì. L'ultima. No, abbastanza bene, io ho sempre avuto un buon rapporto, quindi mi sono trovato abbastanza bene. Non è facile, non è semplice, perché tu devi, mi immagino un allenatore come Pirlo, come Ferrara all'epoca, insomma, dare degli ordini ai tuoi compagni, insomma, non è facilissimo e non è semplice, anche perché non sai mai se recepiscono o se ti dicono sì per cavalleria, o ti dicono sì perché ne sono convinti. Sì, sì, sì, sì. E quindi vabbè, noi abbiamo avuto anche sempre la chiarezza se si sia spezzato quel filo, no? Quello che vi lega magari in anni di carriera. Allora, ci teniamo un minuto ancora a Rampulla, facciamo scivolare un attimo il traffico. La Juventus oggi ha incassato ancora gol e di fatto in campionato l'ha sempre fatto, tranne che la partita di debutto contro la Sampdoria. Sono tutti gol un po' da analizzare. Ti posso chiedere secondo te da che cosa nasce questa situazione? Se da un atteggiamento che a tratti diventa passivo, se da una questione tattica, se sono errori individuali? Ma io credo che siano tutte, come posso dire, errori di sistemazione, no? C'è un allenatore nuovo, poi hanno giocato sempre, la difesa non è mai stata sempre la stessa, per cui manca quella continuità di gioco, di reparto, e poi è un centrocampo che secondo me deve ancora trovare la quadra giusta, nel senso che il centrocampo è fondamentale sia per l'attacco, per tutta la squadra in generale, ma per la difesa, per quanto riguarda di sporcare i passaggi per le punte delle avversarie, per dare una mano ai difensori. Quindi credo che sia un mix di componenti che portano ancora a non avere la quadra giusta della fase difensiva. Io credo che gli errori ci stanno, individuali ci saranno sempre, per fortuna, se no non si vedrebbero mai gol. Quindi sì, io credo che si devono un po' sistemare anche il centrocampo. Oggi Arthur ha fatto una discreta partita, per cui ci sono giocatori che hanno bisogno di continuità a giocare, poi soprattutto quando si gioca ogni 2-3 giorni è sempre difficile, per cui si vedranno sempre un sacco di gol. Ripetiamo, sì, in un contesto che non è normale, voglio dire. È la stagione sbagliata per gli allenatori che vogliono costruire qualcosa. Sì, allora, esatto, c'è il traffico. Io ringrazio Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo, a presto. Ciao, grazie a voi, buon lavoro. Ciao. Alla prossima. Allora, ricordo che alle 18 seguiremo in diretta il primo tempo. Scendono in campo Napoli, Sassuolo e Roma Fiorentina. E a proposito di Napoli, questo è un test interessante, perché Napoli di fatto ha 4 punti in meno, quelli del 3-0 a tavolino con punto di penalizzazione, ma è la squadra che sta insieme al Milan correndo di più, e quindi sarà da fare anche qualche ragionamento anche dopo averlo visto in campo questa sera contro il Sassuolo. C'è Roma-Fiorentina, c'è ancora tanto altro da raccontare anche quello che ha fatto Ibrahimovic oggi a Udine. 800 24 00 24, vi aspettiamo qui fino alle 19. Adesso il traffico, poi torniamo e c'è più Luigi Pardo. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Eccoci allora. Napoli che questa sera, Carlo, dovesse vincere con il Sassuolo, di fatto diventerebbe in questa prima fase di campionato l'anti-Milan, e di questo dobbiamo parlare, perché il Milan sta legittimando il suo primo posto in classifica con una sequenza di risultati, una continuità di rendimento che ormai affonda le radici a gennaio dell'anno scorso, e Ibrahimovic sta facendo dei numeri pazzeschi. Il cuore, l'anima e il sangue di quella squadra, che però non è soltanto Ibrahimovic. Allora, ci ha raggiunto Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Ciao. Che oggi mi ha raccontato. Domenica c'è Lazio-Juventus, ragazzi. Sì, domenica c'è una grande partita, prima ovviamente c'è in mezzo la Champions, però sicuramente, insomma, la racconteremo, e sarà una grande partita, una grande occasione. La Lazio ha dimostrato, al netto di tutti i ragionamenti che abbiamo fatto sul VAR, non sul VAR, in una settimana molto complicata, di essere una squadra comunque con delle risorse quasi incredibili, quasi esoteriche, no? Nel senso che comunque poi... Anche se mi sembra, Pier, mi sembra un campionato che non offre punti di riferimento, perché insomma, il punto di riferimento non può essere la Lazio di oggi, che al 94esimo e 30 secondi era sotto di un gol e andava sul dischetto del rigore. Credo che abbiamo già parlato di VAR, o forse ne parleremo molto 18:05. Volentieri. Okay, dopo 18:05, perfetto, allora sarà interessante ascoltare. Voglio dire, si può discutere. Però Pier, se vuoi possiamo anticipare, vi faccio sentire se volete Marotta di ieri, un pezzettino solo di Marotta di ieri, perché poi sul VAR, insomma, in questo fine settimana non parla più tanto. Io volevo solo dire una cosa sulla settimana della Lazio, che ha vissuto forse la settimana più complicata dal punto di vista di un gruppo, di un allenatore, di un gruppo squadra, come si dice, e comunque, voglio dire, c'è una forza, una compattezza, una coesione che è quella che va sottolineata, secondo me. Poi al di là del fatto che il Torino ovviamente giustamente protesterà dal suo punto di vista per il rigore del 3-3, però dal punto di vista del lavoro di Inzaghi, dal punto di vista dell'atteggiamento della squadra, insomma, trovarsi a un passo dalla sconfitta al 94esimo e portarla a casa e trovare il gol del 4-3 in quel modo è una dimostrazione di mentalità, di voglia. Ma anche andare a brucia in minimi termini e portare a casa un pareggio. Secondo voi la vittoria di questa sera a Torino assomiglia quanto a quella presa un anno fa in condizioni simili a Cagliari, sempre della Lazio? Molto, moltissimo. Poi Caicedo è l'uomo della provvidenza da questo punto di vista, c'è anche Sassuolo e l'anno scorso, insomma, la Lazio ha costruito. Adesso io non so se sarà in grado quest'anno di ricostruire un percorso così virtuoso per poter lottare per lo scudetto. Credo che la Champions League sia comunque un impegno molto grande che può, secondo me, togliere qualcosa al campionato. Però lo spirito è quello dell'anno scorso, l'uomo della provvidenza è lo stesso dell'anno scorso, quindi questa cosa va detta e ripeto, arriva in una settimana in cui la Lazio ai minimi termini si è presentata prima a Bruges e poi un po' meglio in casa del Torino, quindi con grande forza, secondo me, mentale. Sì. Poi il Torino ovviamente può progressare, dopo parliamo del rigore 3-3. Adesso ne parliamo, vi faccio sentire però Simone Inzaghi che sta iniziando a parlare a Sky. Abbiamo avuto due trasferte, quella di Bruges e quella di oggi, che l'abbiamo organizzata senza sapere i giocatori 24 ore prima, quindi ci sono delle difficoltà, penso che ce l'abbiano anche i miei colleghi, ma per noi oggi era importantissimo non lasciare punti per strada e abbiamo incontrato una squadra molto organizzata che ci ha dato filo da torcere soprattutto nel primo tempo. Fatto molto bene Muricci, mi pare, soprattutto al di là dell'azione del gol, ecco, in queste situazioni. Poi c'è stato il cambio naturalmente al secondo tempo con Immobile e Caicedo, però Muricci bene, mi pare. Sì, no, sono contento, insomma, devo cercare di alternare perché giocando ogni due giorni e mezzo non è semplice. Oggi sono partito con Correa e Muricci, lo stesso Pereira, secondo me ha fatto molto bene, poi aveva preso una munizione, era la prima da titolare sia per lui che Muricci, quindi sono soddisfatto, ma sono soddisfatto della reazione che ho visto, perché è un gruppo che ha un'identità, che ha forza mentale oltre che fisica. Avete concesso un po' troppo, e che ha anche qualche alternativa importante davanti, perché Muricci, Pereira oggi hanno giocato, hanno fatto una buona partita, Caicedo oramai lo conosciamo, no? Correa. Sì, forse ha meno alternative negli altri settori, credo, no, che davanti la Lazio sia abbastanza profonda. Fa una piega quello che dice Inzaghi, che è in pratica quello che ha detto prima per Luigi Pardo, cioè giocare queste due partite portando a casa il risultato in queste condizioni vuol dire avere qualcosa dentro, la Lazio dentro a qualcosa, cioè è una squadra con grande sostanza. Poi dove arriva lo vedremo, sugli infortuni, sugli episodi, sui cambi eccetera eccetera, però questi risultati vogliono davvero dire che sotto il vestito c'è tanta roba, insomma. Detto questo, abbiamo un grandissimo problema arbitrale e ripeto, ne parleremo con Luca Marelli in Var Anatomy dalle 18.05. Io voglio solo anticiparlo perché voglio conoscere il pensiero di Pierluigi Pardo. Lo facciamo con una parte piccola dell'intervento ieri di Marotta, ma sul VAR, sulla questione arbitrale oggi hanno parlato in tanti, tra ieri e oggi hanno parlato in tanti, anche settimana scorsa, ed è il caso di mettere il punto, perché questo è il mio parere, così non si può andare avanti. Sottoscrivo quanto detto ieri da Mihajlovic, non si capisce più nulla del metro di utilizzo del VAR. Perché anche oggi in Torino-Lazio viene dato il calcio di rigore intervenendo su una fattispecie, quella del fallo di mano, come se fossimo l'anno scorso, quando anche oggi sono stati episodi anche più importanti ed evidenti, penso ad esempio a Udinese-Milan, e arbitro e VAR sono rimasti silenti. Serve che ci sia un metro uniforme di giudizio. Allora Pier, ti faccio sentire un estratto di Marotta ieri e poi voglio sapere cosa ne pensi. Io credo il mondo del calcio era favorevole alla tecnologia, il supporto tecnologico deve chiaramente limitare gli errori, certamente non li può debellare nella loro totalità, ma comunque un episodio del genere è proprio l'esempio di come il supporto tecnologico serve per chiarire meglio la situazione. Pier? Ma io pure sono preoccupato, anche perché ve lo dico proprio con affetto, premesso che poi io non credo che un telecronista si... Io detesto dover giudicare gli episodi arbitrali, lo detesto, però è chiaro che in questo momento la confusione è ai massimi livelli, e siccome buona parte delle situazioni del calcio sono situazioni discrezionali, a me sembra che negli ultimi periodi il VAR aumenti ulteriormente la discrezionalità e la variabilità, cioè invece di essere un elemento che risolve problemi, guarda, li risolve sulle situazioni metriche, li risolve sul fuorigioco. Sul fuorigioco uno dice: Morata ammazza, che sfiga, perché è la verità, si è beccato tutta una serie di situazioni nel suo recentissimo passato di fuorigioco quasi millimetrici, però voglio dire, fa parte della vita, no? È come quando però non può essere ridotto a questo, cioè non può essere ridotto a questo. Su tutta la parte invece che riguarda la discrezionalità arbitrale, che è una parte enorme, che riguarda mille episodi, il VAR sta diventando purtroppo un ulteriore elemento di complicazione, cioè invece di portare una sorta di certezza del diritto, della legge, sta ulteriormente complicando le cose, sta diventando un elemento di ulteriore complicazione dello scenario. E io sono d'accordo, ma ripeto, poi andiamo sugli episodi specifici, io non credo che ci sia nessun disegno, non lo credo per natura, non lo credo per mentalità, credo che ci sia un'enorme confusione e che il VAR stia diventando un ulteriore elemento di confusione. Cioè, comunque, tradotto, noi il VAR l'abbiamo raccontato, cercato di spiegarlo, e lo facciamo da anni, anche con la preziosa collaborazione di Luca Marelli. Certe volte, ecco. Scusami, perdonami, il VAR che certe volte non interviene, il VAR che certe volte invece interviene fuori protocollo, cioè sta diventando una situazione, non si sta chiarendo il quadro, cioè non si sta portando a casa il risultato per il quale il VAR è stato chiamato. Ma la discrezionalità è il senso di tutto. Così non serve, lo diciamo, così non serve di tutto. Serve qualche volta, però, allora, il concetto è: serve qualche volta, ma se serve qualche volta e altre volte non viene usato, inevitabilmente dici: scusa, perché lì non l'hai usato? Cioè, sta diventando, allora forse, da un punto di vista della comunicazione, io sono per il VAR e sono per continuare, ci mancherebbe altro, però qualcuno dice, tutto sommato, allora meglio l'errore arbitrale con l'arbitro che se ne assume al 100% le sue responsabilità, torniamo a valutare la posizione nella quale l'arbitro guardava gli episodi e limitiamo il VAR soltanto alle cose oggettive, come il fuorigioco, come il pallone che entra e esce, la goal line technology, questa roba qua. Sì, però la discrezionalità è la chiave di tutto. Quando l'errore, se l'arbitro di Piccinini ieri a San Siro può anche essere scusabile e comprensibile, seppure grave errore, unito al non intervento di Maresca, ma vale anche per Giacomelli e Nasca la settimana scorsa. Vale per il rigore di Atalanta-Sampdoria, quello dove non c'è neanche contatto per intenderci, eppure vanno al VAR e lo confermano, perché l'indicazione è quella di confermare la scelta del campo. Allora, così non serve, si fanno dei danni, si fanno danni anche, io credo, alla credibilità complessiva di come viene gestita la direzione di gara di questo campionato. Così non serve, se il VAR deve essere questo, e quindi se l'indicazione è quella che ci ha raccontato Luca Marelli per settimane, guardate che l'indicazione è intervenire il meno possibile, allora diciamocelo francamente, Carlo, io la penso così, tanto vale fermarci alla goal line technology e magari, se vale la pena, al fuorigioco, ma sì, non oltre. Ma stiamo discutendo del senso stesso di questo strumento, perché quando, se discutiamo della arbitrarietà dei giudizi di chi è in campo, stiamo discutendo veramente del senso stesso di questo strumento. Peraltro dobbiamo notare che prima di Giacomelli, prima di quell'arbitraggio in Milan-Roma, insomma, eravamo tutti piuttosto ottimisti e fiduciosi, no? Anche sulle modalità di impiego e sulle modalità di arbitraggio di questa stagione. Poi da lì in poi, evidentemente, sono cominciate le stellegrame. Allora, ci dobbiamo fermare un minuto. 800 24 00 24, torniamo, parliamo di Milan e di Ibrahimovic. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. La squadra sta facendo bene, stiamo lavorando, poi siamo squadra più giovane in Europa, colpa mia che lo alzo un po', ma mi fanno sentire giovane, ragazzi bravissimi e poi hanno una fame incredibile, hanno una voglia incredibile, in allenamento, in partite e mai soddisfatti. La responsabilità lo prendo io e mi piace anche, loro non devono sentire questa cosa, invece ci penso io e loro devono solo lavorare e credere. Poi i momenti difficili arriva per tutti, l'importante è lavorare e pensare positivo. Io non so se voi ve lo aspettavate, quando a gennaio è sbarcato in Italia un Ibrahimovic capace di fondare così una squadra sulle proprie spalle, sulla propria roccia. Com'è questo Ibrahimovic al di là dei gol e dei numeri? Ci sono delle registrazioni. No, allora, andremo a cercarle. Confermiamo. Anche Carlo. Sì. Anche Carlo. È vero, lo scettico ero io, ammetto. No, ma io adesso non mi ricordavo di un altro, ma insomma in generale, ma non importa, i giudizi si sbagliano, ci mancherebbe altro. E ci vuole anche culo, come sempre nella vita, per indovinare i giudizi. Però che Ibra sia qualcosa di completamente diverso, che per quello che è secondo me anche un po' il ritmo del nostro calcio, ancora può fare la differenza, questo mi sembrava abbastanza pacifico. Poi ti dico la verità, mi sta sorprendendo. Io aspettavo che facesse bene, mi sembra che stia alzando l'asticella, stia alzando il suo limite, stia diventando sempre più importante in questa squadra, stia prendendo sempre più confidenza col suo ruolo. Guarda, io trovo che la cosa più sorprendente sia l'atteggiamento. Mi sembra veramente uno che ha raggiunto la pace dei sensi. Non fa più quello che deve dimostrare: io sono il re, voi non siete nessuno, eccetera. Gioca veramente come il padre allenatore di questo gruppo qui. Sì. È l'atteggiamento quello che più mi ha colpito. Francesco Guidolin, ciao, buon pomeriggio. Ciao, mister. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Quanto ciao, tempo che non vi vedete, Che non vi vedete che non ti vedo, Pier. Come stai, Pier? sto bene, sto qui vicino a Gormons e rimango stanotte qui in questa terra che tutti e due amiamo molto. Sì. Così come amiamo il grande calcio, e devo dire che Ibra, Francesco, è veramente è uno di quelli che poi, quando saremo anziani, lo diremo a degli eventuali nipoti o dei figli: guardate che noi abbiamo commentato, e fra questi c'è Ibra, perché Ibra è una di quelle persone lì, è uno di quegli esseri speciali che fanno il calcio, che fanno il calcio. È così. Beh, oggi ha fatto un gol che possono immaginare solo lui e pochi altri. Sì, perché è stato il primo a reagire su questa palla vagante dentro l'area di rigore, e lui ha avuto l'intuizione che se si muoveva per primo con una rovesciata di quel tipo, e lui, come dire, poteva disinnescare il tentativo di Musso di riparare, di respingere, e ai difensori che erano lì intorno di intervenire. Quindi scegliendo per primo il gesto tecnico da fare, non ha neanche fatto fallo, perché non è assolutamente gioco pericoloso. Insomma, è un'intuizione da grande giocatore, da campione. Sì, è naturale occupare lo spazio. L'allenatore, no, volevo chiedere a Francesco, l'allenatore, sai bene cosa voglia dire avere uno che ha questo carisma in campo, no? Questo ascendente nei confronti degli altri. Si è creata un'alchimia speciale al Milan, secondo me. E sono convinto che possa durare, e se durerà il Milan arriverà lontano. E l'alchimia è composta da un allenatore bravo, serio, una società che ha fatto degli investimenti interessanti su un gruppo di giocatori giovani. Di alcuni di questi Ibrahimovic potrebbe essere il padre. Uh-huh. Quindi non è più il giocatore anziano che ha 32, 33 contro quello insieme a quello che ne ha 22, quindi qui si parla anche di differenza quasi di 20 anni. E quindi c'è proprio una sorta di pace dei sensi, nel senso che c'è proprio una persona che è ancora straordinariamente forte, fisicamente sul pezzo. È un gruppo di ragazzi che vanno a mille all'ora, che ascoltano lui, che giocano su di lui, che si aggrappano a lui, E anche proprio nel modo di giocare, il Milan può giocare in più modi, palleggiando. Quando non ce la fa a palleggiare, palla lunga su di lui, saltato il centrocampo, occasione da gol, o gol come nel caso di oggi. È un allenatore che ha saputo gestire questo tipo di situazione, quindi bene, più di dire bene, non gliel'ho detto a Pioli, è già la seconda o terza volta, spero per lui e per, insomma, di poterglielo dire da qui alla fine del campionato, ma sicuramente il Milan, se mantiene questa alchimia, va lontano. Sì, c'è da chiedersi anche fino a dove possa entrare nella testa Ibrahimovic e di quella banda di ragazzini, se ad esempio possa mettergli in testa l'idea che si possa vincere lo scudetto, che è concetto che Ibrahimovic ribatte dall'estate scorsa. Ma lui è ascoltato ed è un leader non solo tecnico, è un leader carismatico, sì, che, cioè, i ragazzi, secondo me, alcuni di essi pendono dalle sue labbra, cioè, e lui è intelligente, perché non è... voglio dire, anche quando dice devi darla a me la palla, cioè si fa capire, ma nel modo giusto, come dire, sì ragazzo, fidati di me, non ti preoccupare, tu corri che poi ci penso io. È bella questa chimica, è bellissima veramente. Guarda, questa cosa qui è bella, adesso dico una cosa che spero non sia equivocata, cioè secondo me, per chi segue il calcio al di là delle simpatie per una squadra o per l'altra, questa è una bella storia, perché Pioli si è costruito la sua riconferma sui risultati e sul lavoro. Sapete che c'era Rangnick non è mica un pezzo, Rangnick è un profilo molto interessante, non è che il Milan pensato a Rangnick avesse pensato a uno e incapace. E soprattutto però non è stata un'invenzione giornalistica il fatto che il Milan pensasse a Rangnick. Pioli si è costruito il suo destino lavorando sodo, prendendo per mano la squadra nel momento più difficile. Ibrahimovic l'ha sostenuto, c'è una liaison molto forte fra i due. Ibra, me lo ricordo, nel post partita di Milan-Juve, era l'8 luglio, se non vado a memoria, molto perplesso. Poi ha preteso i soldi, ha preteso il contratto, non è che abbia fatto sconti. Ha detto io sono Ibra, io vengo qui, vi do una mano, ma non vi faccio sconti. Sta lavorando da professionista, ma sta dando una grande mano. E poi c'è il lavoro della società, che secondo me deve essere sottolineato, perché questa è una squadra che io comincio a contarle le scommesse riuscite. Alcune cose sono stati dei colpi, cioè Hernandez lo sapevamo che era forte, insomma non avevo grandi dubbi fin dall'inizio, ma altre cose, tipo Salemaker, tipo vedere Brahim Diaz, parlando con Ricci, lo sappiamo, è uno che ha giocato 21 partite in un anno e mezzo a Madrid, se non sbaglio, vado a memoria, ma insomma, voglio dire, è un talento, ma è uno che è un oggetto misterioso, e lo vedi come entra e che contributo dà. Vedi la crescita che hanno fatto Bennacer e che livello di intesa hanno raggiunto. Kier, aspettiamo, ragazzi, Tonali. Kier sembrava onestamente un giocatore ormai per questa dimensione non più adeguato, ma è Calabria, cioè potremmo andare dall'1 all'11, come si diceva una volta. Quindi è veramente una storia che fa bene, secondo me, al calcio, perché è proprio il lavoro, la programmazione, il mattone dopo mattone che sta funzionando. Pioli spesso è stato definito normalizzatore e non era quasi un complimento, perché di solito attende dagli allenatori che siano dei potenziatori, e invece questa volta è proprio così, cioè sta facendo una cosa normale, ma nella normalità in realtà sta tirando fuori il 100% da questo gruppo, Francesco, no? Che è il massimo che si possa chiedere a un allenatore. Perché in Italia è così, basta leggere sul giornale il nome di un allenatore straniero, sembra che debba venire un dio, no? Cioè, invece i nostri allenatori sono sicuramente preparati, e Pioli ha messo in campo la sua competenza, la sua saggezza, il suo equilibrio. Adesso si sta togliendo delle grandi soddisfazioni, perché me lo ricordo anch'io quando era sul giornale che occorreva fare spazio a questo sicuramente bravissimo allenatore che si chiama Rangnick, ma ci sono anche da noi, va là, sono convinto, sono ultra sicuro che ci sono anche qui. Sì, che ci sono ottimi allenatori. Certo, grazie Francesco. Ciao mister, grazie. Ciao. Grazie a voi. Ciao, grazie a Francesco Guidolin. Un quarto d'ora all'inizio di Napoli, Sassuolo e Roma Fiorentina. Non ci sono grosse novità nelle formazioni, almeno per quanto riguarda Napoli, Roma e Fiorentina. Nella Roma c'è soltanto Karsdorp al posto di Bruno Perez. C'è qualche cambio nel Sassuolo, scelto da De Zerbi per scendere in campo al San Paolo. Questa è, dal punto di vista della classifica, la partita più interessante di questa sesta giornata, perché anche il Sassuolo abita in questo inizio di stagione le parti alte della classifica. La seguiamo dalle 18. Adesso il traffico, torniamo fra un minuto. per scendere in campo in diretta con tutti i convocati. Chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Champions ha una possibilità di recupero molto limitata, quindi noi abbiamo giocato con l'Ajax un'ottima gara, e abbiamo comunque 4 punti, con il Liverpool sarà una partita di grande valore ai fini della classifica, visto che il Liverpool ha vinto ad Amsterdam. Cos'è per lei Klopp? Beh, è un riferimento come per tutti gli allenatori, per quello che ha dimostrato con le sue squadre, dal Borussia Dortmund al Liverpool. Andiamo verso un grande martedì di Champions, Real Madrid-Inter, Atalanta-Liverpool. Dell'Inter parleremo poi in maniera più approfondita, al netto della questione arbitrale, dopo le 18 con Massimo Paganin, perché chiaramente Conte ha delle difficoltà, sta facendo fatica a mettere insieme i pezzi di una squadra che ha grandi potenzialità ma non riesce ad esprimerle, questo almeno stanno dicendo i risultati in questa fase d'avvio della stagione. Volevo concentrarmi però, Pierre e Carlo, sull'Atalanta, che ieri abbiamo visto meno brillante del solito, togliendo le 2 partite perse dopo la sosta in questo campionato, e però alla fine capace di essere efficace, quasi matura, perché si è portata via a Crotone una vittoria di quelle pesanti proprio perché difficili, Pier. Sì, bisogna capire, con tutto l'affetto e il rispetto e la voglia di tornare a Crotone per numero impegnativo di trasferte e anche la consistenza del Crotone, che è una squadra che secondo me sta provando a cercare la salvezza attraverso il gioco, e questa cosa va sottolineata ed è un merito. Bisogna però onestamente fare anche un po' una tara. Detto questo sono d'accordo, perché comunque a Crotone non è facile vincere, l'ha dimostrato la Juve non più tardi di 2 settimane fa, e l'Atalanta ha portato a casa un buon risultato. Quindi sì, io ti dico la verità, sono sempre un po' dubbioso sull'Atalanta, nel senso che pensavo che il salto di qualità definitivo verso una certa normalizzazione verso l'alto, no? La prevenzione degli sbalzi d'umore che l'Atalanta insomma conosce molto bene, fosse stata superata. Onestamente le ultime uscite invece vanno in una direzione diversa. Sì, non del tutto convincente nemmeno con l'Ajax, no. Soprattutto nel primo, cioè soprattutto esatto. Era sotto 2-0, grazie, però propenderei più per l'idea che l'Atalanta sia in una fase di forma media, esatto. né troppo positiva né troppo negativa, e ieri sicuramente con del mestiere ha portato a casa 3 punti pesanti su un campo che non sarà facile per la chiuderei così. Ma Gasperini, lasciando stare le differenze tra il valore insomma delle due squadre, è la cosa italiana che assomiglia di più a Klopp? Sì, certamente. L'Atalanta come stile di gioco ricorda molto il Liverpool, ma è parente stretta anche dell'Ajax che abbiamo visto soprattutto 2 anni fa, e la Juventus la ricorda bene. Io sono abbastanza d'accordo con Pierluigi, cioè la sensazione è che l'Atalanta sia il momento in cui deve resistere, perché la condizione non è delle migliori. Continuo a pensare però che se consideriamo il Milan in corsa per lo scudetto, se vogliamo considerare il Milan in corsa per lo scudetto, lo è anche l'Atalanta, cioè nel senso che l'Atalanta deve, può e deve correre per quel traguardo lì, poi che ci arrivi vediamo. Ragazzi, l'anno, io ho detto delle 7 sorelle all'inizio della stagione, così un po' giocando. Ma può essere l'anno delle 7 sorelle, perché la quantità di variabili rispetto al passato, e secondo me le distanze tecniche si sono accorciate, e la quantità di variabili è enorme. Io non è che oggi l'ho commentato, hanno fatto una bella impressione, è in testa alla classifica, tecnicamente in fuga. Io non penso che il Milan abbia la rosa migliore del campionato, no. Però penso che in un campionato che comunque ha più variabili rispetto al passato, dove non c'è una vera dittatura, il Milan deve cominciare a credere, no, se dovesse andare avanti così potrà cominciare a crederci, cioè veramente non escludo nulla. Io poi l'ho detto, per me la rosa, se guardiamo la rosa, l'Inter era più forte. Poi, e da Napoli cosa vi aspettate? Ore 18 a San Paolo contro il Sassuolo. Tantissimo, perché il Napoli secondo me è assieme alla Juve, mentre all'Inter in quella fascia altissima di squadre che possono fare molto bene, e non è che ho cambiato giudizio rispetto, o meglio, rispetto a quest'estate sono successe delle cose. Koulibaly è rimasto, Osimhen si è presentato subito come un crack, un giocatore dal punto di vista, secondo me, proprio anche tattico, di disponibilità nei confronti dei compagni enorme, e insomma tutto è cominciato. No, mi aspetto, senza il caos di Juve-Napoli potrebbe essere lì, certo. Ricordiamo che poi fra una decina di giorni saremo qui a parlare del ricorso del Napoli contro quella sconfitta a tavolino. Da quel caos è a punteggio pieno, cioè sul campo ha fatto 4 partite e ha vinto 4 partite in campionato. Senza dimenticare che dall'estate è uscito anche con rotazioni più lunghe, non dimentichiamo che è arrivato anche Bakayoko, certo. Insomma, comincia ad avere tanti giocatori. Nell'ideale ranking, io sono d'accordo con Pierluigi, io vedo Inter, Juve, mettetele nell'ordine che volete, poi il Napoli, esatto. poi vengono le altre, anche lì mettetele nell'ordine che volete. Ho l'impressione che dall'estate sia uscita anche con il lavoro di Gattuso, che esattamente come Ibrahimovic sta convincendo tutti gli altri che il Milan può fare una stagione di vertice, Gattuso sia stato capace di convincere il Napoli che può stare in alto. Sì, Gattuso sta facendo un lavoro incredibile, adesso però insomma sta per giocare una partita che oltretutto è uno scontro diretto, perché il Sassuolo merita di essere trattato in questo momento come una squadra che può puntare ai massimi traguardi. Gattuso sta facendo un lavoro incredibile su di sé, secondo me prima di tutto sta facendo un lavoro incredibile su di sé, nel senso che ha cambiato, io lo adoro perché secondo perché me è uno che cambia idea. E non se ne vergogna, lui ha una curiosità e ha dimostrato, non è banale. Sta dimostrando una curiosità e devo dire anche un'onestà intellettuale, anche nel, sai che lui è sempre il primo quando si deve prendere anche delle critiche, cioè lui è veramente questa cosa qui e secondo me in questi mesi sta crescendo tantissimo. Ma io non lo so se il Napoli vincerà il campionato, ci sono centinaia di variabili, però questa è una squadra che si sta evolvendo. Ti ripeto, è uno che cambia idea e non se ne vergogna, ogni riferimento a persone, luoghi o fatti è puramente casuale, ho voluto. A chi ti riferisci? Ma poi parliamo dell'Inter, no? Dopo le 18 parliamo dell'Inter. Però scusa, posso dirti al volo, l'Inter sì. È un'altra forza. Conte è un allenatore che viene da anni comunque di altissimo livello, di successi, e che probabilmente nella sua testa pensa che non cambiare, che alla fine avrà ragione lui non cambiando. Gattuso è un allenatore emergente che si sta costruendo, che ha avuto questa possibilità del Napoli dove ha fatto comunque bene al Milan e che onestamente adesso si sta evolvendo lui e sta migliorando la squadra, quindi sono due punti, Conte e Gattuso dal punto di vista della carriera dell'allenatore sono ovviamente su due livelli diversi, perché uno ha una storia già di successi, l'altro è un giovanissimo. Sì, dal punto di vista della carriera Gattuso è il Conte di 10 anni fa. Ci dobbiamo fermare perché c'è il GR. Ciao Pier, a domani. Ciao Pier. Adesso c'è il bar, vi ascolto, perché 18:05. Perché veramente non voglio fare Marotta bis, però veramente però non si capisce non si capisce nulla. Inspiegabile. Il VAR che interviene certe volte e certe volte no, è inspiegabile. Allora, se c'è la discrezionalità, allora decidiamo che tutto ciò che è discrezionale arbitrale il VAR non interviene, perché sennò diventa allarga ulteriormente. 18:05 dopo il GR, Pier. Dopo il GR. Ciao, ci sentiamo fra pochi minuti. 800 24 00 24. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Convocati. VAR Anatomy con Luca Marelli. Non sono qui per esprimere, per protestare, sono qui per fare una denuncia su un vuoto normativo regolamentare e dall'altro una maggiore attenzione, perché è giusto che, siccome le critiche arrivano ai dirigenti, agli allenatori e ai giocatori, è giusto che anche la classe arbitrale ogni tanto prenda un attimo una posizione un attimino di maggiore attenzione. Su questi casi VAR non deve intervenire, perché è arbitro che deve decidere, ok, ma sui rigori e tutto, se non ci sono, se si vede che non ci sono, la lasciano andare, e poi i rigori non ci sono e la VAR sta zitto, invece dove non deve intervenire interviene. Allora mettiamoci d'accordo come funzionano le cose, perché c'è una confusione che non si capisce nulla. E avere una situazione del genere in cui il VAR viene utilizzato solo parzialmente significa comunque creare delle situazioni di forte disagio che poi hanno un'incidenza su quello che è il risultato. Abbiamo ridotto in pillole il riassunto della questione arbitrale di ieri, in due dei tre anticipi, poi oggi si è aggiunta tanto altra carne al fuoco. Saluta Luca Marelli, ciao Luca. Ciao a voi. Ciao Luca. 800240024, allora togliamoci subito il problema e discutiamo di quello che abbiamo visto a Torino tra Torino e Lazio e di quel fischio, il calcio di rigore che ha concesso il direttore di gara su chiamata del VAR, direttore del gara Chiffi, il VAR Massa, minuto numero 95, conclusione di Immobile verso la porta del Torino. Toccata, intercettata con un braccio da Nkoulou, l'arbitro fa correre, poi viene richiamato dal VAR. Luca. Ma guarda, io sono rimasto molto perplesso onestamente, sia dalla chiamata di Massa che dalla decisione di Chiffi, perché il braccio è vicino al corpo, molto vicino al corpo, leggermente, proprio la mano leggermente staccata, ma francamente io il rigore non riesco a vederlo. Anche perché avevamo capito che erano cambiati i parametri, no? Sull'interpretazione dei falli di mano. Ma guarda, che siano cambiati i parametri non lo so, non credo proprio, però questo è un rigore che neanche l'anno scorso, a mio parere, che neanche l'anno scorso avrei giudicato tale, perché non è una parata, semplicemente se non avesse toccato col braccio probabilmente avrebbe toccato il pallone col corpo, perciò faccio veramente molta fatica a vedere un tocco di mano punibile. Oggi c'è stato un tocco di braccio anche nel finale di Udinese-Milan, siamo proprio nei dintorni del 90esimo, c'è un tocco di braccio di un difensore dell'Udinese, braccio molto largo e pallone tra l'altro che arriva anche, mi permetto di dire, non inaspettato. In quel caso il direttore di gara Di Bello, facendo di proseguire, Longo non interviene, non lo richiama alla review. Allora la domanda che sorge spontanea, e l'abbiamo già fatta settimana scorsa nell'episodio che poi ha ricordato Mihajlovic ieri, l'episodio di settimana scorsa era il gol annullato al Bologna per un fallo a inizio azione pescato dal VAR, è qual è l'uniformità di intervento in questo caso nei tocchi di braccio? Guarda, tu mi hai fatto una premessa che mi porta a dire che sarebbe calcio di rigore, io non sono d'accordo, secondo me non era calcio di rigore neanche quello di Udine per tocco di mano, cioè secondo me non era rigore nessuno dei due, perché è vero che il braccio è abbastanza largo, però si sta chiudendo ed è un pallone che tra l'altro c'è anche un mezzo contatto dell'attaccante, perciò io non riesco a vedere neanche in questo caso il calcio di rigore per il tocco di mano, perché non lo vedo come un tocco di mano volontario, neanche come un aumento del volume corporeo, lo vedo come un braccio che si sta chiudendo e che tutto sommato ci sta di non intervenire. Il problema dell'uniformità esiste, ma quello che ha detto Mihajlovic mi trova lo sposo in pieno, nel senso che la settimana scorsa, proprio parlando di Lazio-Bologna, abbiamo detto che, almeno ho detto, sostenuto che l'intervento del VAR Mazzoleni era stato sbagliato, perché era un episodio di campo che tale doveva rimanere, come quello di ieri. Cioè l'uniformità ci deve essere su questi episodi. Se a Roma è intervenuto, ci si aspettava che intervenisse ieri. La realtà è che l'errore è quello di Roma, non quello di ieri. Ieri è giusto lasciare correre, perché comunque Fabbri era in controllo dell'azione, esattamente come Irrati era in controllo dell'azione a Roma. Perché altrimenti, in questo caso, sì, ha ragione chi dice che diventa la moviola in campo. E il VAR non è la moviola in campo. Per smaltire gli episodi di Udinese-Milan, il Milan ha molto protestato sul rigore assegnato a inizio ripresa all'Udinese per un contrasto tra Romagnoli e Pussetto. Romagnoli tocca sicuramente leggermente il pallone, intanto Roma in vantaggio 1-0, dodicesimo gol di Spinazzola contro la Fiorentina, però in questo caso Di Bello assegna il calcio di rigore e Longo non lo chiama alla review. Sì, no, su questo episodio sono d'accordo, perché è vero che Romagnoli ha sfiorato il pallone, ma è anche vero che ha preso tanto pussetto, che insomma, in questi casi se si prende un po' tutto vale ovviamente la decisione del campo, ma il VAR non sarebbe intervenuto, questo è che bisogna sottolineare, non sarebbe intervenuto anche se non avesse fischiato il calcio di rigore, perché è una valutazione del campo. È discutibile? Sì, è discutibile. Per quanto mi riguarda, a mia opinione, è che è un rigore che è giusto dare. Fammi finire con Udinese Milan sul gol del Milan, quello del vantaggio definitivo, perché si parla di un possibile gioco pericoloso di Ibrahimovic. Ecco, in questo caso io non sono assolutamente d'accordo. Secondo me il rigore è assolutamente regolare, perché è il difensore che si muove verso il piede di Ibrahimovic. E poi, in ogni caso, se anche volessimo considerare l'infrazione di Ibrahimovic, l'Ibrahimovic stesso non colpisce pienamente il pallone perché viene spinto da Musso, c'è una spinta molto evidente con la mano sinistra sulla schiena di Ibrahimovic, perciò considerando tutta la dinamica dell'azione io tendo a considerare regolare la rete della vittoria del Milan. Sì, ne parlavamo prima, no, Carlo, anche con Francesco Guidolin. È Ibrahimovic che va a occupare lo spazio e sì, a quel punto tutti gli altri si muovono in ritardo. Però apriamo un po' il dibattito, perché al di là degli episodi di oggi che abbiamo smaltito, soprattutto concentrati in Udinese-Milan e Torino-Lazio, è aperta da ieri, ma secondo me non solo da ieri, perché il fuoco covava sotto la cenere con episodi non determinanti, ma comunque indicativi di una certa confusione. Carlo, il dibattito è di sistema, è un dibattito come viene usato o non usato il VAR. Sì, perché dopo che vedi quello che è successo ieri a San Siro, di cui in tutte e due le situazioni, no? Quella di Giacomelli dell'altro giorno e quella di ieri, allora il dibattito non è sul singolo episodio, ma è di sistema. Questo è il senso. Quindi così il VAR non regge, non può funzionare, Luca. Guarda, dobbiamo toglierci anche da un equivoco, cioè l'equivoco è che pensare che l'anno scorso il VAR funzionasse. In realtà l'abbiamo detto tante volte anche su queste frequenze, che l'anno scorso il VAR è stato utilizzato troppo e male in Italia, tant'è vero che il numero di rigori è stato un numero sproporzionato rispetto al passato del campionato italiano, ma soprattutto rispetto alle altre realtà europee. Cioè in Italia l'anno scorso si fischiate 187 rigori, e in Spagna 120, la media italiana. Assolutamente no, cioè era chiaro che si dovesse ridurre di un buon 30%, cioè se dovesse tornare quantomeno ai numeri soliti. Non si può arbitrare per le statistiche, cioè stiamo vedendo cose in campo con difformità di utilizzo o, sottolineo io, di non utilizzo del VAR, che oggettivamente creano delle situazioni che sono anche imbarazzanti da commentare. Vale ieri per il mancato rigore dell'Inter, ma se torniamo indietro, insomma, alcuni episodi li abbiamo citati anche prima. Sì, Giovanni, il problema l'abbiamo già individuato comunque negli anni precedenti. Qua c'è un problema di qualità della classe arbitrale, c'è poco da girarci attorno. Cioè, poi, perché possiamo vedere anche oggi, vediamo Torino-Lazio, è una partita che potrebbe diventare quasi un'icona di questo problema. Cioè, Chiffi è un arbitro che a me è sempre piaciuto, però a un certo punto bisogna anche abbandonare i propri preferiti, perché Chiffi ha fischiato un rigore su Belotti che è un rigorino. Poi subito dopo, fine primo tempo, il 37esimo, non ha fischiato un rigore grande come una casa e non è intervenuto il VAR. Poi è stato richiamato da Massa, che lo ha richiamato su un episodio molto meno evidente del rigore non fischiato al 37esimo nel primo tempo. Cioè sono tutte questioni che poi vanno affrontate, perché alla fine gli errori vengono commessi in campo. Anche gli errori che abbiamo visto oggi, ieri, dimostrano comunque che c'è un problema di qualità, perché pensare che Piccinini, con la visuale completamente aperta, non possa non giudicare come irregolare l'abbraccio su Perisic, e francamente lascia molto perplessi. Che poi il VAR non intervenga, perché questa è la linea, che un episodio che viene visto e valutato dall'arbitro non deve essere rivalutato dal VAR, ci può anche stare in linea di principio, ma il problema ma secondo te Rizzoli dirà qualcosa a Maresca o no, VAR ieri a San Siro? Nasca una settimana fa è stato fermato. Sì, perché è qualcosa di differente, perché anche in ambito nei corridoi UEFA, per esempio, i due episodi di Milan-Roma sono considerati entrambi da un field review, ma per motivi diversi, perché il primo rigore l'arbitro ha visto un episodio al contrario, cioè ha visto un fallo di Benasser, in realtà Benasser il fallo l'ha subito, perciò doveva intervenire. Dal campo si può essere tratti in inganno, ma il VAR non può intervenire. Sul secondo non c'è niente, non c'è neanche un contatto, e in quel caso bisogna intervenire perché ovviamente è stata un abbaglio. Quindi dobbiamo abituarci che un rigore non dato come quello di ieri o come Bernardeschi contro il Verona, come il rigore dato per intenderci e che non c'era in Atalanta-Sampdoria, sono episodi che vanno catalogati come errori accettabili anche passando al vaglio del VAR? Guarda, io ho questo timore, te lo dico adesso così almeno spero di essere smentito. Io ho il timore che ci sia una rivisitazione anche degli interventi, cioè ci sia discontinuità nelle prossime giornate rispetto a queste prime giornate, perché ho la sensazione che si vada un po' a braccio. Cioè, e questo non, che non c'è proprio una linea comune, non c'è una chiarezza di intenti sull'utilizzo della tecnologia a fronte di episodi che oggettivamente sono degli errori. Ci sono errori, cioè prendiamo come esempio Udinese Milan, se non avesse fischiato il calcio di rigore avremmo potuto discutere, ci sono elementi a favore sia del calcio di rigore che del non calcio di rigore. Per quanto riguarda quello di ieri, anche se l'ho visto e l'ho valutato, oggettivamente è difficile trovare un elemento che possa scagionare il difensore, cioè c'è un abbraccio che è durato 3-4 secondi. Se Piccini non valuta un episodio di questo genere come calcio di rigore, e non è una questione di percezione, lì c'è un problema tecnico. Quindi se prevale la linea di principio secondo cui decide l'arbitro in campo che ne ha tutte le possibilità, allora possiamo parlare per giorni e giorni, no? Luca, quindi stacchiamolo, sì. Stacchiamolo appunto, il VAR. Dobbiamo derubricarlo, no, arriviamo alla voce errore arbitrale, punto, e ci fermiamo lì, no? Sono d'accordo, perché arriviamo all'applicazione del VAR secondo quello che erano i desiderata degli estremisti anti-VAR, cioè quello di utilizzare il VAR solamente per il fuorigioco, per il pallone dentro fuori al campo, per la punizione fuori o dentro l'area di rigore. Arriviamo a questo, ma il VAR è nato anche per questo, ma soprattutto per correggere errori chiari ed evidenti. Quando Marotta, nel momento in cui Marotta dice che c'è un vuoto normativo, secondo me intende proprio questo, non intende che ci sia un protocollo sbagliato, che sia un protocollo nel quale manca qualcosa, ma secondo me intende dire che non si è mai capito esattamente quello che viene inteso a livello internazionale e naturalmente come recepimento a livello nazionale, che cosa si intende per chiaro ed evidente errore, perché effettivamente non è mai stato definito chiaramente cosa sia questo chiaro ed evidente errore, siamo andati sempre anche noi un po' intuito. Cioè, cercando di capire dalle voci corridoio, dal metodo che viene utilizzato, dalle statistiche anche, per capire che cosa sia questo chiaro evidente errore. Ma effettivamente, se qualcuno mi chiede cos'è il chiaro evidente errore, nessuno l'ha mai detto. Io lo chiedo a te da giurista, dobbiamo fermarci, ragazzi. Siamo ampiamente lunghi rispetto al traffico. Tanto ci aggiorniamo, abbiamo tempo e ve lo annuncio anche: abbiamo davanti una sosta per le nazionali in cui utilizzeremo lo spazio di VAR Anatomy per provare a mettere i paletti e fare i punti. Grazie Luca. Ciao Luca. A voi, ciao. Buon lavoro. Ciao. Grazie Luca Marelli. 20° del primo tempo, 0-0 Napoli-Sassuolo, clamoroso gol sbagliato da Osimhen, 1-0 della Roma sulla Fiorentina, il gol di Spinazzola al 12°, traffico, parliamo dell'attacco alle nazionali. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. L'abbiamo detto più volte che l'anno scorso si è conclusa una stagione anomala e se ne è riaperta un'altra ancora più anomala. Certamente questo che dico non è un alibi, ma un dato di fatto. Noi dal 21 agosto abbiamo praticamente effettuato 8 partite ufficiali, a cui vanno unite altre 6 partite delle nazionali, a cui risponde 3/4 della nostra rosa, e che depone che sia veramente difficile. A questo aggiungiamo anche 7 Covid. Su 70 giorni che sono qua, ho allenato 22-23 giorni, 60 giorni sono stati, un mese sono stati con le nazionali, quindi è normale che ci sia un po' di, non di fluidità di gioco e magari ancora di qualche posizione un po' non capita al 100%. È una situazione che quantomeno dobbiamo cercare di limitare nell'ottica almeno di ridurre le partite della nazionale, perché altrimenti veramente si fa fatica a gestire le squadre, in questo caso la nostra, da qui a fine campionato. Marotta che alla fine è arrivato al cuore del problema per il club. Saluto Alessandro Vocalelli. Ciao Alessandro, buonasera. Ciao ciao, buonasera a voi ascoltatori, un saluto a tutti. Allora, hanno ragione i club o è la battaglia che spesso abbiamo etichettato come di retroguardia e di semplice difesa dei propri interessi? No, hanno ragione perfettamente i club, perché di fronte a una situazione eccezionale come quella che ahimè stiamo vivendo, indipendentemente dalla questione calcio, per tutto quello che sta succedendo, bisognava far fronte con delle decisioni eccezionali, quindi cercare in qualche modo di ridurre gli impegni. Invece colpevolmente questa stagione, che sapevamo che era una stagione comunque un po' rischiosa, è cominciata esattamente come se invece non fosse successo nulla, con lo stesso numero di impegni, con lo stesso numero di partite, dico colpevolmente per quanto riguarda le nostre istituzioni, anche senza aver minimamente pensato a un piano B o a una soluzione diversa. Noi andiamo avanti così un po' a braccio, sperando di riuscire ad andare il più avanti possibile, però tutto questo secondo me denota una scarsa programmazione. Sì, anche se ce l'hanno con le nazionali, non con il numero di partite sì, dei club. Sì, no, infatti. Beh, Giovanni, però io allargo il discorso pure in Italia. Ad esempio, dimmi tu se è normale che ancora non sappiamo quale famoso piano B potrebbe essere. Ad esempio, in un caso malaugurato che si sospendesse il campionato, quali sono poi a un certo punto i playoff, tra quante squadre si giocherebbero? Sono cose che dovevi decidere prima e non in corsa. Ma noi siamo arrivati in corsa anche a decidere, a recepire la direttiva dell'UEFA sul numero di giocatori arruolabili prima di poter rinviare una partita. Però quello della nazionale è una considerazione di sistema, l'ultima di Marotta. Ridurre il numero delle nazionali in valore assoluto, di questo dobbiamo parlare. Modificare il calendario, cosa che l'UEFA, anche a livello di coppe, se guardate bene dal fare, perché è andata avanti dritta, si va avanti normalmente sulle nostre direttive, punto e basta. In questo caso sì, servivano probabilmente, anche alla luce della precedente tornata, delle considerazioni eccezionali, per cui ok, nazionali mettiamoli un attimo e poi vediamo di recuperare tutto quanto è recuperabile più tardi. Ma cosa significava cancellare una Nations League, cancellare le amichevoli? I sudamericani ad esempio vanno a fare le qualificazioni mondiali, difficile immaginare che non si debbano giocare, Alessandro. Sì, no, comunque bisognava cercare il modo, naturalmente di concerto tra l'UEFA, la FIFA, tutti quanti, di trovare il modo di togliere un po' di affollamento a una stagione che inevitabilmente sarà una stagione condizionata e in cui non ci sono poi spazio per i campionati nazionali, che se dovessero rinviare qualche altra partita non saprebbero guai quando fartele recuperare. Appunto, io credo che serviva un, come si dice in questo caso, degli stati generali veramente a livello importante, che mettessero mano a un problema che, ripeto, è un problema eccezionale e non può il mondo del calcio stare lì a guardare come se nulla fosse successo. Ieri Marotta ha detto saremo molto rigidi adesso che arriva una nuova tornata di convocazioni. Tu ti aspetti che prima o poi da parte dei club possa esserci una presa di posizione anche clamorosa, dura, arrivare a uno scontro sulla questione delle nazionali? Io penso di sì, perché tra l'altro credo che sia un sentimento comune, l'aveva già detto De Laurentiis qualche giorno fa. Evidentemente è una problematica che circola all'interno dei club, che credo voglia dire anche se un giocatore non sta perfettamente bene, io comunque lo tengo qui a curarsi. Ecco, io credo che prima o poi si arriverà a uno scontro, diciamo, che diventerà l'ago della bilancia su cui si prenderanno delle decisioni più generali. Però penso che prima o poi, come si dice in questi casi, la causa che scatenerà tutto ci sarà. È un paradosso che Pirlo abbia avuto i giocatori meno dei rispettivi commissari tecnici in questo avvio di stagione. Dico Pirlo perché ne ha parlato ieri, ma vale per la quasi totalità degli allenatori. è un paradosso e anche una giustificazione, perché non è che devo fare l'avvocato difensore di Pirlo, ma sulle difficoltà di questo rodaggio iniziale di una squadra che lui prende chiaramente nuova nella guida tecnica e nuova anche in tanti giocatori e non ha la possibilità minimamente di allenarci. Allora o siamo folli noi che in tutti questi anni abbiamo detto che i ritiri, i lunghi ritiri, la sperimentazione, gli allenamenti servivano a qualcosa, oppure è una realtà dei fatti che, di cui, non, ripeto, non tener conto, secondo me, è assolutamente miope se non cieco. No, ma poi altrimenti arriva al paradosso opposto, che è quello del Napoli, che era rimasto, per le ovvie ragioni che conosciamo, blindato in ritiro per 2 settimane, poi ha asfaltato l'Atalanta perché gli altri erano andati in giro per il mondo, quindi insomma è una catena di... C'è una certa differenza, c'è una certa differenza tra allenarti due settimane, ma oppure... tu cosa dici? Cioè fare la preparazione pre-campionato o non farla, cioè siamo a quei livelli lì. No, ma sì. Ricordiamoci che, per carità, io non voglio minimamente attribuire nella responsabilità a nessuno, ma che naturalmente c'è stato solo il fato, però Zaniolo si è fatto male in una partita della nazionale e il campionato non era ancora cominciato, quindi non era ancora cominciata neanche la fase di preparazione e già c'erano degli impegni internazionali. Ripeto, sarebbe successo comunque, però la preparazione di un giocatore che poi deve affrontare 9 mesi di stagione o ha un valore o non lo ha, questo è un fatto importante. Grazie Alessandro. Ciao a voi, ciao, buona serata a tutti. Grazie, ciao, grazie, ciao. Grazie ad Alessandro Vocalelli. Ci avviciniamo alla mezz'ora del primo tempo a Napoli, 0-0 tra Napoli e Sassuolo, la grande occasione che vi abbiamo raccontato di Osimhen, ma il Sassuolo sta piano piano uscendo e sta cominciando a impensierire la difesa del Napoli. La Roma continua a condurre 1-0 con la Fiorentina, gol di Spinazzola al 12esimo, e la Roma ha avuto una grande occasione per raddoppiare con un colpo di testa di Dzeko che ha costretto Dragoschi, portiere della Fiorentina, ha una grande deviazione in calcio d'angolo. Ci avviciniamo anche all'Olimpico alla mezz'ora. Ci fermiamo, poi affrontiamo il tema Inter, uscendo dalle questioni arbitrali e parlando del poco che si è visto in campo in queste settimane per la squadra di Conte. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti con voi. Tutti convocati. Inglese, terzo momento di Cervinio davanti al portiere, Cervinio, ancora lui, raddoppia il Parma, 2-0. L'assist di gol sotto porta, rete, ha pareggiato l'Inter, c'è stata la deviazione che ha tratto in inganno sempre da parte di Perisic. È giusto anche guardarsi, cercare di migliorare, cercare di aumentare quella determinazione, quella cattiveria quando siamo lì, per sfruttare tutte le occasioni che creiamo. Per l'ennesima volta abbiamo creato tanto e lì, quando siamo arrivati, siamo stati decisamente imprecisi, molli, poco determinati, ed è il motivo perché oggi stiamo parlando di un altro pregio. Vi do qualche numero a proposito della stagione dell'Inter, dell'avvio di stagione dell'Inter in campionato: 7 punti in meno rispetto all'anno scorso, dopo le prime 6 giornate, 2 gol fatti in meno, erano 13, quindi perdonatemi, 2 gol in più fatti, e 8 gol subiti in più, erano 2 l'anno scorso, dopo le prime 6 partite sono 10 in questo avvio di stagione. Massimo Paganin, ciao. Ciao Massimo. Ciao. Allora, dov'è il male dell'Inter? Della questione arbitrale abbiamo parlato ampiamente prima con Luca Marelli, e quindi diciamo usciamo dal fatto che poi la gara di ieri sia stata evidentemente condizionata anche dall'errore del direttore di gara. Sì, ma non c'è un male in questo momento, perché hai detto bene i numeri. Io ci aggiungerei che l'Inter nelle ultime 4 partite, se vogliamo, ha concesso solamente 16 tiri verso la porta di Handanovic, di cui 6 in porta. Credo sia una stagione anomala, nel senso che l'Inter è stata l'ultima squadra a terminare il 21 di agosto. due settimane di sosta, ricominciato agli inizi di settembre. Secondo me c'è ancora qualche cosa da aggiustare, tenendo conto anche di quello che è stato il Covid, delle problematiche che ci sono state, che riguardano ovviamente tutte le squadre, ma è chiaro che se parti un po' più in ritardo puoi essere condizionato. Gli ultimi episodi, mi riferisco alla partita con il Parma, sono stati due errori individuali, se vogliamo, di De Vrij, che però è stato il miglior difensore dell'annata scorsa, quindi indipendentemente da tutto direi che quella è stata una partita condizionata da due singoli episodi. La squadra sta creando tanto comunque, perché indipendentemente da tutto è vero che trova delle squadre che prevalentemente tendono a difendersi, così è successo nelle due partite di Champions, nelle partite in campionato con Genoa e Parma, però questo credo che sarà il leitmotiv di tutto il campionato, no? Le squadre, Conte vuole una squadra estremamente propositiva, l'Inter è la prima squadra come palle recuperate nella metà campo avversaria, la prima se non sbaglio assieme a Atalanta, Napoli se non mi ricordo, come tiri in porta verso la porta avversaria, quindi direi che c'è un percorso di crescita, la squadra sta cambiando, sta cercando di cambiare marcia. È vero che è un po' indietro rispetto a quelli che erano i parametri della scorsa stagione, però mi viene un po' in mente forse la Juve di Allegri, quell'anno nel quale aveva 5 punti e non riusciva a fare un salto di mentalità perché l'anno precedente aveva fatto molto bene. Serve quel salto di mentalità, quello che ha chiesto Conte, ossia dall'annata scorsa a quest'anno bisogna riazzerare tutto e ripartire con quella fame di vittoria, quella cattiveria agonistica, quella voglia di ottenere il risultato, che poi fanno tutta la differenza del mondo sul campo, perché la squadra, ripeto, crea tanto, ma manca quella determinazione, quella convinzione che ancora non si percepisce della squadra, che è consapevole di quello che deve fare e soprattutto che deve avere più fame e più rabbia degli altri. Allora Giovanni, io trovo che sia stata perfetta la lettura di Guidolin prima sulla situazione del Milan, trovo che sia perfetta questa lettura, almeno io la condivido parola per parola, questa di Massimo Paganin sul momento dell'Inter. Non puoi parlare di sfiga ieri, non puoi parlare, cioè puoi parlare di singoli episodi, ma fa anche un po' ridere. La verità è che questo Inter crea tanto, è vero subisce, è vero ha bisogno di tempo, è vero anche che ha secondo me due nodi che però prima o poi vanno sciolti. Uno è quello relativo a Lautaro, che è intermittente quanto il connazionale di Bala sembra una lampadina di Natale, e l'altro è il solito Eriksen, che mi sembra non c'entri veramente niente con questo gruppo progetto allenatore. Massimo? Sì, ci sono. Dicevo, purtroppo sì, diciamo che quello di Eriksen, Conte sta dando delle opportunità che non vengono sfruttate al massimo dal giocatore. E, cioè, la percezione che abbiamo noi da fuori, perlomeno guardando la partita, no? Che non incida sul risultato per quelle che sono le sue qualità. Questo direi che è un dato di fatto. Per quanto riguarda Lautaro, invece, io credo che sia molto Lukaku dipendente per certi aspetti, nel senso che Lukaku è quel giocatore che dà profondità alla squadra, che è in grado di giocare sull'ultimo uomo spalle alla porta e dà la possibilità agli altri poi di giocare il pallone. Lautaro è molto bravo a girargli sotto e le occasioni che si crea spesso sono dovute allo spazio che crea Lukaku. È chiaro che tutte le grandi squadre, abbiamo visto oggi Cristiano Ronaldo, adesso se penso al Milan Ibrahimovic, per parlare delle italiane, hanno dei giocatori che sono imprescindibili. L'Inter ha Lukaku, però direi indipendentemente dal fatto che ieri lui non ha giocato, l'Inter ha creato molto. Lautaro deve terminare il suo percorso, a mio modo di vedere, e crearsi quello spazio suo personale. Manca ancora poco, perché sta facendo molto bene, ricordiamo che ha 23 anni e a mio modo di vedere da qui in avanti deve fare un ulteriore salto di categoria, perché è chiaro che per quanto lo riguarda sono delle responsabilità maggiori quelle che si deve assumere nel momento in cui manca il compagno di reparto e il reparto lo deve fare lui. È lecito però chiedergli di più quando non c'è Lukaku, sì, anche per il peso che ha dentro la squadra, immagino anche a Madrid, se Lukaku come sembra non ci sarà martedì, se dovesse mancare il belga anche nella prossima trasferta, quella prima della sosta a Bergamo con l'Atalanta, per un giocatore che ha immaginato per mesi di andare a giocare nel Barcellona, probabilmente quel processo di crescita va considerato, se non concluso, almeno sufficientemente avviato per poter avere comunque un punto di riferimento in campo se manca Lukaku. Sono d'accordo, sono d'accordissimo, nel senso che il percorso di crescita di ognuno di noi, ma è chiaro per un calciatore magari viene molto accelerato, è quello di assumersi delle responsabilità, sono quelle del campo poi. Se sei un giocatore a livello internazionale così importante, così valutato, è chiaro che da te si pretende di più. Questo è il punto essenzialmente ed è la cosa più importante indipendentemente da tutto. Credo che da questo punto di vista Lautaro debba crescere ancora un po'. Quindi non, purtroppo diciamo che essendo il calcio, ripeto, un acceleratore, non c'è tempo, no? Non c'è tempo. Quindi in questo momento a lui si chiedono delle cose che lui deve essere in grado di dare per certi aspetti. Ha fatto benissimo nel percorso di crescita, adesso c'è quell'ulteriore step che deve essere fatto, logicamente, per entrare nell'annovero dei grandi giocatori, dei grandi attaccanti. Non è un po' monocorde l'Inter? Una delle accuse che viene fatta in queste settimane a Conte è quella di non derogare dal suo 3-5-2, poi con o senza trequartista, ma insomma sempre 3-5-2. ma non è un 3, sì, un 3-5-2 se vogliamo col trequartista, ma lui sta utilizzando moltissimo adesso Barella piuttosto che Eriksen, a seconda di chi gioca poi, perché potrebbe essere anche Nainggolan, quasi come trequartista. Al lato pratico la mezzala, una delle due mezzali si alza molto e va a dare supporto alle punte e all'azione d'attacco, e soprattutto lavora tantissimo con gli esterni. Non dimentichiamo che l'Inter lo scorso anno è stato il secondo miglior attacco, comunque indipendentemente da tutto, di poco dietro all'Atalanta, ha fatto più di 80 gol, perciò direi che Conte da questo punto di vista può sembrare monocorde, ma direi che ha trovato delle soluzioni. È chiaro che bisogna trovarne altre nel corso della stagione, perché purtroppo o per fortuna qui in Italia abbiamo degli allenatori molto molto bravi, in grado di leggere quelle che sono diciamo così le direttive dell'allenatore, trovare delle soluzioni strada facendo. Quindi Conte dovrà trovare delle soluzioni, ma credo che sia una prerogativa di tutti gli allenatori che vogliono vincere, quella di trovare delle soluzioni strada facendo per cercare di dare ai propri giocatori degli strumenti diversi quando giocano. Sì, sembra un po' poco disponibile, però prima parlavamo di Gattuso e della sua curiosità, no? Della sua anche attitudine a cambiare idea, ma dichiarandolo tranquillamente, lo ha fatto anche quest'anno con il Napoli. Conte sembra un po' meno morbido da questo punto di vista, Massimo? Sì, è vero che comunque ha cambiato, è vero che potrebbe giocare anche con la difesa a 4, perché ha giocatori che potrebbero giocare con la difesa a 4. Credo che da questo punto di vista farà quelle che sono le valutazioni in base anche a quello che sono le proposte. Ripeto, la squadra sta costruendo comunque tanto, sta creando tanto, e quindi credo che da lì poter cambiare al momento sia un po' difficile per lui, proprio perché vede che la squadra, indipendentemente da tutto, non è in difficoltà. Cioè, lo aiuterebbe o sarebbe un problema? Metterebbe confusione, dici? Sicuramente sì, in questo momento. Provare quando a cambiare. Quando devi cambiare, già non vengono i risultati in funzione di quello che stai producendo. Cercare di cambiare ci vuole un periodo piuttosto lungo. Come ho detto, è un periodo anomalo. Giocano tantissime partite, 8 partite più quelle che devono giocare con la nazionale. Sentivo, leggevo oggi di Pirlo che ovviamente ha avuto i giocatori per un terzo del tempo da quando è iniziata la stagione, quindi l'allenatore ha poco tempo per lavorare con i giocatori, dare dei concetti nuovi spesso e volentieri sembra, ma non è che nei numeri basta cambiare i numeri, voglio dire, e si ottengono dei risultati. Logicamente c'è un lavoro dietro che va fatto, perché le linee di passaggio e le costruzioni del gioco sono abbastanza complicate e sono dei processi piuttosto lunghi delle volte da dover ottenere. Lo si può fare invece quando una squadra è in fiducia. Quando la squadra è in fiducia puoi cambiare, perché tanto viene recepito molto bene. Quando ovviamente mancano un po' di risultati, c'è un po' di pressione, bisogna evitare, secondo me, di fare dei cambiamenti, perché è chiaro che potrebbero portare delle difficoltà. Allora, Inter che giocherà martedì a Madrid contro il Real, giocherà domenica a Bergamo contro l'Atalanta, poi c'è la sosta delle nazionali, quella che non piace a Marotta, lo abbiamo sentito, ma non piace a tanti altri, e poi ci saranno 10 partite in un mese, da Inter-Torino fino alla trasferta di Verona 2 giorni prima di Natale, 10 partite in un mese che saranno presumibilmente il primo momento decisivo di questa stagione e che l'Inter insomma affronterà, probabilmente Conte affronterà così come tutti gli altri, senza avere il tempo di prepararle, queste 10 partite, senza avere il tempo di provare a costruire qualcosa. Grazie Massimo. Ciao Massimo. Grazie a voi. Ciao, buon lavoro, grazie mille, buona serata. Grazie a Massimo Paganini. Intanto ci avviciniamo al finale di primo tempo delle due gare che si stanno disputando. La Roma continua a essere in vantaggio 1-0 con la Fiorentina, gol di Spinazzola al 12esimo e grande protagonista Dragoschi, che dopo aver fermato Dzeko ha fermato anche con due grandi interventi Karsdorp e Mkhitaryan. 0-0 invece al San Paolo tra Napoli e il Sassuolo. Napoli che ha avuto due grandi occasioni, la prima con Osimhen e la seconda con Fabian Ruiz qualche istante fa. Episodio più che dubbio, per usare un eufemismo, dentro l'area del Napoli, protagonista vittima Boga, ma il direttore di gara Mariani ha fatto correre e lo stesso ha fatto il VAR Fournot. A proposito di uniformità di intervento del VAR, ci fermiamo, abbiamo ancora un blocco, parliamo di Formula 1. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Vince il Gran Premio dell'Emilia-Romagna e lo fa facendo il giro veloce anche all'ultimo passaggio. 1:15.484 davanti a Valtteri Bottas, Mercedes campione del mondo per la settima volta nei costruttori, terza posizione per un super Daniel Ricciardo, poi Kvyat bravo con l'Alfa Tauri, Leclerc a tenere dietro Perez, a chiudere in quinta posizione Kimi Raikkonen, l'unico che aveva corso qui con un podio e una pole, Kimi Raikkonen a punti insieme ad Antonio Giovinazzi. Grande giornata per l'Alfa Romeo Racing, nuovo record, 7 titoli mondiali costruttori di fila, può festeggiare alla grande. Toto Wolff tolto il primato alla Ferrari, già eguagliato la passata stagione, adesso solo la Mercedes, 7 titoli costruttori di fila. E non è finita qui, almeno questa è l'impressione, perché ci sono altri record che in questa stagione la Mercedes può fare, a partire da quello delle pole position, cioè fare tutte le pole position, e fin qui è riuscita a fare il percorso netto la scuderia di Stoccarda. Saluto Umberto Zappelloni, ciao. Ciao, buonasera. Ciao. Allora, oggi è stata una grande giornata per l'Alfa, nono Raikkonen e decimo Giovinazzi, è stata una grande, la solita grande giornata per Lewis Hamilton, nona vittoria della stagione, 93esima della carriera, è stata la solita giornata per Valtteri Bottas che è partito davanti ed è finito dietro, era una giornata discreta anche per la Ferrari, direttore, no? Poi insomma le cose si sono un po' incasinate ai box, alla fine portiamo a casa il quinto posto di Leclerc, il 13° di Vettel, tutto come normalità in questa stagione disgraziata. Che normalità, vuol dirti che quando dietro safety car tu avevi visto Leclerc quarto dietro Ricciardo, la colina in bocca era venuta, insomma, considerando Charles molto bravo alle ripartenze, invece poi ha perso una posizione invece di guadagnarla, ha finito al quinto posto guadagnando due posizioni rispetto a dove era partito, ci sono stati anche due ritiri importanti, Verstappen e Gasly. Binotto ha detto che il bicchiere è mezzo pieno, è vero, c'è stata una migliore gestione delle gomme, c'è stato un erroraccio ai box, però io credo che infierire sui meccanici Ferrari, che in questa stagione sono sicuramente meglio degli ingegneri, non sia il caso. Peccato, perché hanno compromesso forse la miglior gara dell'anno di Vettel, che avrebbe tranquillamente finito a zona punti. Insomma, Vettel quest'anno non gliene va proprio bene una, per fortuna le sue gare in Ferrari stanno finendo. No, era andato forte Vettel, così come così come oggi è stata la grande giornata della Alfa Romeo, sì, ma di Kimi Raikkonen che ha fatto una gara pazzesca. Entrambi erano fuori con le prime gomme con cui sono partiti, erano i primi due, stavano andando forte, poi a Raikkonen è andata meglio. Io credo che Vettel abbia veramente tutti i diritti oggi di avere il morale sotto le gomme. Sì, sì, con moderazione, perché con moderazione, hanno tutti i diritti anche gli altri. Sì, sì. Ci mette sempre un po' anche di suo, però Seb in questo, insomma, oggi in gara stava disputando veramente una gara con il ritmo giusto, insomma, era lì, sarebbe arrivato sicuramente in zona punti, probabilmente davanti a Kimi, È vero, Raikkonen è bravissimo a gestire le gomme, io non dimenticherei il primo giro di Giovinazzi che ha guadagnato 6 posizioni, è una costante nelle partenze di Antonio, forse la sua botte migliore. Lewis Hamilton, dopo la gara, sono qui da molto tempo, al momento non so nemmeno dire se ci sarò l'anno prossimo, la decisione di Wolff non mi preoccupa, posso capire la voglia di fare un passo indietro e dare più tempo alla famiglia. Come le dobbiamo leggere? Siamo tutti pronti per far scattare la ola nel caso in cui dovesse decidere di ritirarsi, ma non credo. Ma non credo, anche perché l'ottavo titolo è lì, insomma, basta quasi partecipare, perché non credo che da quest'anno alla prossima stagione possa esserci una rivoluzione nei valori tecnici. La Mercedes è davanti e ci resterà anche l'anno prossimo, ma non lo dico io, lo ha detto Binotto, lo ha detto Camilleri, lo ha detto John Elkann, cioè lo ha detto chi comanda in Ferrari, quindi dobbiamo arrenderci, insomma, alla loro scienza. La Red Bull all'ultimo anno della Honda non credo che troverà il guizzo per mettere in difficoltà la Mercedes, per cui insomma, non credo in un Hamilton che si ritiri con un ottavo titolo a portata di mano. Diverso il discorso, quindi sta cercando di muovere un po' l'ambiente. Sai, credo che ci sia in discussione molto rispetto al futuro, perché si sta discutendo anche su un salary cap riguardo ai piloti. Si parla di soltanto 30 milioni di euro da spendere per i due piloti, e se una squadra vuole pagarle di più va a detrarre quei denari dal salary cap delle spese globali. questo può influire sicuramente sul pensiero del futuro, perché un Hamilton che guadagna 40-45 milioni può non essere più vantaggioso per una Mercedes e allo stesso tempo lui vorrebbe ridursi lo stipendio e continuare. È tutto in discussione, credo, questo per il futuro sia un problema legato soprattutto a questo. Toto Wolff invece ha un problema di rapporti con il grande con il nuovo presidente della Mercedes, e sicuramente lui però è anche socio del team, quindi insomma è un problema un po' più complicato, credo. Umberto, Hamilton mi ricorda un po' il tuo Ibra, cioè ha un senso di onnipotenza, se vuole una corsa se la prende e non c'è verso e non c'è nessuno su questo pianeta che gliela possa togliere. Ieri Bottas lo ha fatto imbizzarrire ed era chiaramente incazzato nero, e oggi non c'era nessuno che potesse togliergli questa vittoria, almeno questa è la sensazione che ho visto guardando la corsa e guardando l'ultimo giro in cui ha stampato il giro più veloce andando a vincere dopo la safety car. No, ma perché oggi può sembrare una vittoria facile, ma in realtà lui all'inizio si è trovato al terzo posto e ha rischiato anche di uscire contro Gasly alla prima curva. Vero. È stato tranquillo. Quando i due gli hanno liberato la pista là davanti, ha incominciato a fare un giro più veloce dietro l'altro. Ha mangiato i doppiati che si è trovato davanti con una cattiveria e una grinta impressionante. Ha ricordato molto certe gare di Schumacher, che quando c'era da fare i giri veloci uno dietro l'altro si metteva lì e faceva dei giri al millesimo di secondo uno uguale all'altro. E poi quando la safety car gli ha rimesso in gioco tutto e con Bottas dietro non è che avesse un grande rischio, però poi alla fine ha fatto tre giri più veloci uno dietro l'altro anche nel finale, cioè oggi su quella pista che gli ricordava Senna, che sì, gli ricordava le sette vittorie di Schumacher, voleva mettere la sua firma e l'ha messa, un po' come il piedone di Ibra a Udine. Diciamo. Certo, sono di quella categoria lì Hamilton, anche un po' di più, perché stiamo parlando chiaramente di un monumento assoluto nella storia della Formula 1. E per chiudere, ci siamo anche divertiti su una pista come Imola, che è una pista disegnata per fare Formula 1, per fare motori, disegnata probabilmente molto meglio e con una personalità che tanti gran premi e tante piste che ci siamo abituati a vedere negli ultimi anni non hanno. Almeno da questo punto di vista il 2020 ci ha regalato qualcosa di nuovo. Grazie direttore. Grazie a voi, direttore. A ciao. Ciao, grazie ad Umberto Zappelloni. Noi ci dobbiamo fermare, intanto è finito il primo tempo delle due partite iniziate alle 18, parziali 0-0 a Napoli, tra Napoli e Sassuolo. Manca un rigore colossale per il Sassuolo, andatevelo a rivedere quando avete tempo. 1-0 della Roma sulla Fiorentina, gol di Spinazzola al 12esimo, partita molto bella, con tante occasioni soprattutto per la Roma, ma anche la Fiorentina ne ha avute un paio. Noi ci fermiamo qui, grazie Carlo. Grazie a te Giovanni, a domani. Io ringrazio Edoardo Lavezzari in redazione, Andrea Roccabelle e Pietro Lacorte che si sono alternati in regia. L'appuntamento con Tutti Convocati domani dopo il GR delle 14. Tutti Convocati Weekend torna invece domenica prossima rigorosamente in diretta alle 17. Ciao. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ciao, Radio 24. Saluti!